YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Rieccoci insieme, buonasera Daniele. Che bello il sabato del villaggio, sono sempre più tuo fan. Lo estenderei sempre di più. La puntata. Hai sentito che abbiamo sentito un pochino di Skin degli Scancanensi? Sì. Ma poi tra poco li sentiamo ancora. Perché... La risentiamo, perché ci racconta una cosa. Aspetta, prima faccio il bravo presentatore, sì, sai che adesso nel corso ordine. Sto arrivando. Sì, sì, dunque, il corso di bravo non mi stai più dando. Ah no, ok. Questo è Radio Tube. Noi raccontiamo, mostriamo alla radio i video più visti, il meglio, il peggio, soprattutto il meglio, a volte il peggio. Di quello che si vede in televisione ma attraverso la rete. Se non avete capito non importa, è 3 anni che cerco di capirlo anch'io. Invece se voi volete scriverci et di Bellasio et Marta Cagnola, ho detto prima il mio non è molto elegante come cosa, però non vabbè, importa, perdonami, cancelletto ordine alfabetico. Sì, c'ho il fiatone come Mentana, vabbè, comunque cancelletto Radio Tube e poi ne parliamo anche di Mentana, cancelletto ISDV per il sabato del villaggio. Ci eravamo salutati la scorsa settimana, adesso racconto uno degli aneddoti, sì, del fuori onda che divertono sempre gli ascoltatori che mi dicono che si divertono molto, sì, a sapere quello che succede prima e dopo il microfono. Sì. Quando ci siamo salutati tu mi hai detto, ah ma l'album di David Bowie, perché ne avevamo parlato nel sabato, sì, di villaggio. Sì, perché tu eri in collegamento con il Paolo Giordano. Con il Paolo Giordano, con Paolo, bravissimo critico musicale, avevamo festeggiato, hai fatto avevamo un'ora gioito. Quasi. No, hai mandato tutte le canzoni. No, avrei voluto, non riuscivo a trovare aggettivi per quell'album, per quanto io ho amato David Bowie. Poi purtroppo lunedì mattina io mi sono svegliata stranamente prima del solito, con una strana inquietudine, come spesso purtroppo faccio, accendo il telefonino, apro i social network e vedo, sì, il maledetto push di CNN che ho visto io sullo smartphone. In realtà io ho visto il tweet di Pietro Raffa, che ritwittava il tweet ufficiale dell'account ufficiale di David Bowie, dicendo ma no dai, è uno scherzo, è una, sì, mossa pubblicitaria, non può essere morto David Bowie. Allora, mi sono molto agitata, non so perché, non mi capita sempre. Ho cominciato a cercare informazioni, ho aperto la pagina di Facebook ufficiale e c'era qualcuno che commentava, ma no, è un hoax, una bufala. Però mi sembrava strano che ci potessero essere degli hacker entrati sia nell'account di Twitter che, sì, in quello di Facebook. Qualche istante dopo... E infatti dopo... è durato poco, diciamo, il flusso di questo tipo. Ecco, siccome questa puntata per me sarebbe stata difficile, io lo sapevo, perché comunque non potevamo non parlarne, però ho qualche difficoltà a parlarne, perché ci sono legato da un punto di vista molto affettivo. Però, come sai, e mi ricordi spesso, io non sono un grande cultore di musica. No, infatti diciamo, mi vado sono un po' stupita istinto, perché e lo so, ti ho sentito il merito... molto colpito anche se tu non sei, ecco, così, esatto, appassionato però il, musica. Il merito, e quindi anche l'aiuto che chiedo all'ospite che abbiamo al telefono, del fatto che io conosca anche della bella musica, è in gran parte sua, e soprattutto lui ha lo stesso legame affettivo che posso avere io, forse anche più forte, ma in più ne capisce anche di musica. Quindi chiediamo l'aiuto all'amico che ti ha fatto conoscere David, sì, Bowie. Sì, in realtà poi di professione lavora anche nella comunicazione, pubblicitario, Black Pencil, la sua ditta, si dice ancora? Insomma, al telefono abbiamo un mio amico, nonché il più grande cultore italiano di David Bowie, Matteo Teardo. Buonasera Matteo. Ciao a tutti, non so se posso vincere il premio, però insomma sicuramente da un po' me ne occupo. Matteo, io ti devo, sono obbligata a chiederti cosa è successo lunedì mattina, come l'hai saputo, cosa ti è successo? È successo esattamente questo, molto presto leggevo Twitter e ho visto il tweet di Brian Eno, quindi una fonte sicura. Certo. Che ritwittava un articolo di Hollywood Report. E ovviamente anch'io nel momento un attimo di confusione ho cercato subito altre notizie di conferma che effettivamente nel giro di 5-6 minuti sono arrivate. Quindi c'è stato un momento un po' di di sbandamento, che però nella giornata, diciamo, l'aspetto emotivo si è un po' messo a posto con una considerazione che io ho sempre avuto, cioè che quando muore un artista è diverso da quando ti muore un amico. Per l'esattezza, David Bowie lo seguo dal 1983, lo seguo con una certa assiduità, però mai uscito con lui, mai parlato con lui, sfortunatamente, mai scambiato una mail. La grande fortuna è che noi abbiamo la sua storia, noi abbiamo 45 anni di opere, secondo il mio parere di grandissimo livello, a cui attingere ogni giorno e quando lo vogliamo. La punta di dolore può essere, visti soprattutto gli ultimi due album, quante altre belle cose avrebbe potuto fare. Certo. Ed è proprio di queste ultime ore la mail, anzi il dialogo FaceTime che ha avuto con Tony Visconti, in cui diceva che aveva già iniziato a scrivere un altro album. Però noi abbiamo questo privilegio di avere la sua opera. Ecco, Matteo, perché ci stiamo parlando. Matteo, sì. Forse, nel mio piccolo mi ci metto, forse pensavamo di non essere poi così in tanti, invece è esplosa una cosa che io, che comunque insomma faccio questo mestiere da una ventina d'anni, ho 40 anni, io non ho mai visto per nessuno una cosa di questo tipo, cioè è stata una reazione di stampa e di popolo incredibile. Daniele, eppure, magari sentiamo anche qualche audio, esatto, così poi Matteo ci dice perché che davvero ha segnato questo momento in rete e non solo. Questo ad esempio è successo quella mattina, lunedì mattina, a Utrecht, la cattedrale di Utrecht. Qualcosa di meraviglioso. La cattedrale di Utrecht, invece, cos'è successo? Qual è stato l'omaggio spontaneo dei fans? Eccoli qua, un altro video che è circolato molto in rete. A Londra. Daniele cerca di cantare con i fans. Pensavo. Paolo ti ha aperto il microfono a tradimento mentre cantavi Starman, che è una delle mie preferite, però Matteo, secondo te perché questa cosa ci ha colpito così tanto? Secondo me anche per la presenza dei social network, che ormai amplificano qualsiasi lutto. Però non era la prima volta che succedeva. Financial Times ha aperto il Financial Times, ecco, su David Bowie. Ecco, Matteo, secondo te perché? Per, secondo me, due motivi di base. Uno storico, nel senso che alla fine il ragazzo è dal 69 che era sulla breccia dell'onda e quindi ha accompagnato in maniera rilevante la vita di molte generazioni. E queste generazioni si sono appalesate in tutte le maniere, perché abbiamo avuto tweet di David Cameron, del segretario della NATO, dell'arcivescovo di Canterbury, di Monsignor Ravasi, ovviamente di tutto il mondo dell'arte. Quindi è stato comunque in tutte le decadi, a partire dalla fine degli anni 60, molto presente. La seconda, nel mondo strettamente musicale, è considerato chiaramente la più grande influenza che i musicisti hanno avuto. Cioè proprio un co', quando fanno le indagini tra gli artisti, qual è l'artista di maggiore influenza degli ultimi anni, c'è proprio il coro. E quindi io credo che a questo sia dovuto ci sono delle cose storiche, proprio epocali, dal punto di vista musicale, e ne avete citata una, che è Starman, che hanno cambiato la storia della musica e della società. Matteo, sulla tra poco grande influenza, mi sa che ci torniamo. Tra l'altro, infatti, Monsignor Ravasi ha scritto un bellissimo pezzo sulla prima pagina del Sole 24 Ore su David Bowie. Una brevissima pausa per il traffico e poi torniamo a parlare di David Bowie. YouTube. It's a girl with a small affair to the girl with the mousy hair, but her mother is yelling no. and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. As she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. È quasi impossibile interrompere Barbara Streisand che canta Life on Mars. Uno dei miei soprannomi è Life on Marta, da un sacco di tempo. Oltre che Marta sui tubi, no? Oltre che Marta sul tube, come, sul tube. Ah, giusto, brava. Come diceva il nostro amico Rudy, che ci manca da tanto tempo. Il mio ricordo personale l'ho affidato a Instagram questa settimana, perché ho deciso, siccome non capivo perché mi facesse così tanto male questa notizia di David Bowie, ho deciso di fare una di quelle cose che si fanno ogni tanto, di scendere in cantina dove ci sono gli scatoloni, di portare in casa lo scatolone con le lettere. Io ho uno scatolone enorme con tutta la corrispondenza che tenevo da ragazza, tutte avvolte in nastrini. Tutti gli ex fidanzati, hai prove, scatoloni, no, di amiche, dossier. Amiche. E ho trovato le lettere, ho tirato fuori, sapevo di avere le lettere della mia amichetta delle elementari. E ho postato su Instagram un pezzettino di una lettera che ho visto, era del 1985, perché io e la mia amica Carla, che purtroppo ho perso di vista da 20 anni, d'estate passavamo le vacanze insieme al lago e avevamo due Barbie, e la mia Barbie era fidanzata con Miguel Bosé, la sua era fidanzata con David Bowie. Beh, aveva scelto decisamente bene. Aveva qualche annetto, dal punto di vista musicale, aveva qualche annetto più di me, quindi aveva insomma dei gusti era 85, un po' diversi. Quindi 85, Matteo? Subito dopo Tonight, Tonight dell'84. Abbiamo, ecco, Matteo, io ho una foto di quel periodo, una foto originale di quel periodo, di David ovviamente, certo, di quel periodo lì. E quindi la mia amica mi scriveva le lettere nella parte della sua Barbie fidanzata con David Bowie. E tu, Matteo, raccontaci una cosa tua legata a David Bowie. Nell'83 io vivi il video di China Girl. Dissi, ma questo per me è come si fanno le cose. E da quel momento sono rimasto così. Ieri mattina ho incontrato gli Scancanensi perché hanno presentato il loro nuovo album dal titolo divertentissimo An Architecture. Parte dell'intervista l'abbiamo già sentita nel Sabato del Villaggio, però non sono riuscita a non chiedere loro di David Bowie. Questo hanno detto in particolare Skin e Ace degli Scancanensi. It's a double-edged sword for us because obviously as an influencer, as a musician, as an artist. Per noi è stata una doppia sofferenza. Come musicista, come artista, ha influenzato tutti, ogni band. Ma per noi è stata anche una perdita personale. Lo conoscevamo, abbiamo passato molte volte del tempo con lui. Mi invitava ogni tanto a qualche serata dal vivo a Londra. Quindi è una perdita personale, non solo musicale. Yeah, no, it's a personal loss as well as a musical loss. You know, the biggest loss is for Iman. Ma io continuo a pensare a sua moglie Iman. Per lei è stata una perdita immensa. E lei per me è un'icona, una donna che mi ha influenzato molto. Lei sta soffrendo la perdita più grave, la sua compagna. She really has the biggest loss because she was his partner. Yeah, and I think also the same, you know, with David Bowie, the same with Lemmy as well, and people like that. We've had these people around us since we were kind of born. Penso un po' come è successo con Lemmy Kilmister, che noi abbiamo avuto questi artisti da sempre nelle nostre vite. Sempre, da quando siamo nati, sono stati una presenza nelle nostre vite. Non posso immaginare un momento nella mia vita senza la musica di David Bowie. Lui c'era prima che io nascessi. È la fine di un'era. La sua musica, però, sarà sempre insieme a noi. Vorrei davvero finire la mia vita un giorno così come ha fatto lui. In segreto, protetto dalla sua famiglia, nel segreto del suo mondo privato. E ci ha lasciato un grande album, Black Star. I thought it was so classy the way the whole thing was done, the way the whole thing was handled. Ho pensato che fosse tipico di David Bowie. Ha fatto le cose a modo suo, con grande classe. Allo stesso modo in cui Lemmy ha avuto una vita matta e sregolata ed è finita nel momento in cui non avrebbe più potuto fare follie dal vivo. David ha lasciato questo mondo a modo suo, in modo privato, non coinvolgendo nessuno prima di quel momento. Everybody didn't get involved before then. Sì, è il privilegio di fare il co-conduttore, che uno può scegliere quella a cui è più legato. Sì, mentre ascoltavamo Skin, Daniele ha scelto perché poi dice Never Way Bye Bye, quindi insomma vabbè, insomma Modern Love, poi parla di quello che getta i giornali alla mattina. Matteo, in queste ore si è detto, uscita di scena appunto alla David, lo ricordava anche Skin, le ultime foto, Lazarus, sembra un testamento, non sembra, discussioni. Noi ovviamente ci siamo sentiti prima di questa trasmissione e tu volevi dire anche qualcosa un po', come dire, originale rispetto a questo dire è stato costruito un finale. Boh, è stato costruito un finale, magari anche no. Esatto, la risposta corretta è anche no. Nel senso, sicuramente, come ha detto Tony Visconti, quindi il suo produttore dai tempi di Ziggy Stardust, tendenzialmente la persona musicalmente più vicina a lui in tutti questi anni, c'era l'idea. Non so, forse avete letto che questo tumore che aveva, in verità, qualche mese fa era andato in remissione. Quindi lui aveva preso molta carica, tanto che aveva fatto Lazarus in teatro, poi negli ultimi tre mesi c'è stato un po' il crollo, però dico, ciò nonostante voleva fare un altro album. C'era comunque sicuramente, e Tony Visconti l'ha detto, che questo è stato il suo addio, un piece of art, nel senso che lui ha finito come ha vissuto, cioè in maniera artistica. Certo è che si sono lette molte analisi dei testi di David Bowie, specie di Black Star, in cui si dice c'è scritto tutto. La verità è che no, anche il testo più significativo in questo senso, cioè Lazarus, se lui non fosse morto e fosse ancora vivo, sarebbe uno dei testi strani, espressionisti di David Bowie, certo, che non certo. Parla quasi mai di se stesso. I suoi testi sono assolutamente criptici e per lo più incomprensibili o comprensibili dal punto di vista soggettivo. C'è una cosa che non mi convince di quando si dice, è spesso un po' retorico anche farlo, sì, per fortuna di un artista come David Bowie ci resta tutto quello che ha fatto. Il problema per cui ci manca di più, o perlomeno a me manca di più, è che ogni volta era totalmente nuovo. Cioè ogni volta era un'apparizione di qualcosa, di qualcuno, di una storia completamente nuova. E questa cosa purtroppo non può davvero più accadere. Grazie a Matteo Teardo per essere stato con noi, grandissimo esperto di David Bowie e poi la persona che ha fatto conoscere David Bowie, Daniele Bellasi, quindi sì, ci sarebbe anche Marco, che è il suo fratello, che è più, perché lui è un po' più vecchietto, diciamolo. Sottolineiamolo. Ti deve raccontare anche. Non si nota. Grazie Matteo per essere stato con noi. Ciao. Ciao. Ciao. Daniele, volevo concludere questa prima mezz'ora di RadioTube, però dai, sorridiamo un po'. Sì, no, certo, vediamo un po', certo, anche cosa è successo dal punto di vista musicale. Aveva dei sorrisi stupendi nelle sue ultime foto, c'è cioè quella lì, poi vestito da Dio sempre. Vabbè. Splendido, splendido. Va bene, sorridiamo con... Sorridiamo con Adele. Sì. Allora, intanto in tanti si confondono, il presentatore è James Corden e sì, la trasmissione è il Late Late Show della King CBS. King. Qualcuno lo confonde con Stephen Colbert. No, è James Corden e fa a questo punto Late Late Show. E cosa fa? Una cosa bellissima, voglio farlo anch'io. Cioè, con la pandina, tu sei lì. Vieni sulla... con me a farlo. Sì, ma non canto perché sono stonato, come no, si è sentito dai, prima, lo facciamo. David. Allora, con la panda rossa, tu vai... Arancia, la mia macchia è arancia. Arancia, arancia, allora, scusa, il movimento cosa arancio. Si fanno? Domande, risposte, sì, ma soprattutto... Si canta. Si canta, si fa il carpool, cioè quando si divide il viaggio in macchina, sì, karaoke. Come nelle gite scolastiche quando cantavi, ecco, Biagio Antonacci, lui liberato. Lui l'ha fatto con Stevie Wonder, l'ha fatto con gli One Direction, adesso l'ha fatto anche con Adele. Guidava lui. Te la ricordi la battuta che gli ha fatto Stevie Wonder? No, che aveva detto guido io, ma non ho la patente. Grandissimo Stevie Wonder. Sentiamo cosa è successo con Adele. Vai. Loving this bob. Oh, thanks. Entourage's gonna wear a wig. I'm gonna use my hairline. I can't work out if I should wear a wig or have a weave. I mean, what I like is that you're coming to me for this advice. That's it. We could have had it all. I bet me up and leave the Ma una volta non era simpatica Adele? No, Adele è sempre stata molto simpatica. È un'inglesona di quelle un po' da pub. Ma inglesona, adesso è anche un'inglesina quasi. No, mi sto riferendo alla forma fisica. Però sai quelle belle ragazze che trovi nei pub, simpatiche, una pinta di birra. Lei è simpaticissima, non è male quando canta. Effettivamente c'è questo strumento che gli ha dato. Allora io te la lancio questa idea. Facciamo un carpool karaoke. Ma cosa cantiamo? Non lo so, quello che vuoi, il trio vuoi, guarda, quello il che trio. Vuoi. No, quello lì, Trottolino Amoroso. Quale trio? Al momento ho pensato poi da siamo da in due, da come facciamo a fare un trio che siamo in due? Al momento ho pensato da dei trio, poi ho pensato dei Police, invece tu vuoi perso. Trottolino Amoroso? Ma non lo so, oppure un altro duetto famoso, qual è stato? Le Ali. La sfida. Le Ali cosa cantava? Non lasciate. Daniele, allora, ti lascerò. Ti lascerò, ma era duetto. Anna Oxa, certo. Sì, allora, Sanremo. Accetta la sfida, facciamo basta il carpool che guidi karaoke. Tu, guido io. Cantiamo assieme. Lo facciamo. Christian adesso... Goldoni suona. Dalla regia Christian Goldoni suona. Vabbè, lo organizziamo. Suona il clarinetto? Lo promettiamo agli ascoltatori. Noi ci sentiamo dopo una breve pausa perché abbiamo ancora un sacco di temi. A tra poco. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira, ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Radio Tube. Rieccoci insieme dopo questa mezz'ora musicale. Abbiamo parlato tanto di David Bowie, Daniele, ma d'altronde noi parliamo sempre della realtà vista attraverso quello che gira in rete, i social, i video. Primo su Spotify, io ero lì tutti i giorni. Sì, ha fatto il più 1.005% di scaricamenti. Io poi ho comprato anche il CD digitali. Perché poi dopo vuoi anche la cosa, vuoi averlo, lo so. Però parlando di una cosa che ci è piaciuta molto, ci piaceva molto, ci siamo dimenticati di dire et di Bellasio, sì. Et Marta Cagnola. Sì. Radio Tube con cancelletto davanti, però anche il sabato del villaggio ISDV col cancelletto davanti. Ma adesso voltiamo pagina, parliamo di politica. Quasi posso fare una premessa? Sì, che tu non so sei niente, tu dici sempre le stesse cose che io dico. Ma no, è che ovviamente allora, io questa settimana come il sono post concentrata... fa lo spiegone, le cose spiegate bene, io faccio lo spiegone, a Marta. Ma perché le cose spiegate male, però perché Marta questa settimana ha avuto la presentazione di la presentazione del Festival di Sanremo. Ma noi appunto anche se David Gotica. Bowie le candidature all'Oscar, sì. Insomma, sono stata presa da un sacco di pensieri. Allora devi sapere che uno dei video, no ma questa è cronaca vera, fredda, dei video più visti in rete, tipo adesso io non mi ricordo perché va veloce, però abbiamo superato ampiamente il milione di visualizzazioni, forse un milione e mezzo di visualizzazioni. C'è Christian in regia che dice vai 1.600.000. Fa è stato il video dei 3 dei 5 stelle, sono i 3 dei 5 dei 5 stelle. Sì. Cioè l'onorevole Fico, l'onorevole Di Battista e l'onorevole vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Che si può dire onorevole? Cittadini, giusto, bravo. Vedi che sei preparata anche sulla politica dei 5 stelle. Allora, hanno fatto un video, hanno messo su Facebook e hanno chiesto di condividerlo molto per spiegare qual era la loro posizione sul caso Quarto. Sono in 3 i 5 stelle del caso Quarto. Il sindaco di Quarto del Movimento 5 Stelle, secondo il Movimento 5 Stelle, è sospettata di non aver subito denunciato delle pressioni forti che ha subito da ambienti in qualche modo legati alla criminalità organizzata. Non avrebbe denunciato subito la cosa e quindi per questo non meriterebbe più di far parte del Movimento 5 Stelle, quindi è stata espulsa. Però c'è chi dice no, in realtà da alcune intercettazioni potrebbe sembrare che i leader del Movimento 5 Stelle sapessero. Invece in realtà, da come hanno spiegato in questo video, sembrerebbe che delle intercettazioni si riferissero ad altre cose che sapevano che di Quarto. Insomma è complicatissimo. Però loro lo spiegano abbastanza in maniera chiara. Allora mostriamo alla radio. Chi mostriamo? Di Di Maio o Fico? Vediamo. Che mostriamo Di Battista. Di Battista, vai. Aumenteranno sempre il tiro, proveranno ad infangarci ancora di più perché sono abituati a vivere nel fango, proveranno a spaventarvi perché sono terribilmente spaventati. Noi abbiamo questo sistema di rete, andremo anche nelle televisioni, se necessario andremo dovunque, dicono senza contraddittorio quelli del PD perché sono abituati, no? Se ci va Renzi... Allora siamo già 1.8 milioni nel frattempo, no, di visualizzazioni. Non è che io non mi fidi di Daniele Bellasio come ospite, ma voglio anche un pentastellologo, certo, un cinquestellologo, sì, un movimento cinquestellologo. Sono d'accordo. Allora, posso dire che lui è, dalla sua bio di Twitter, 1986, europeo, giornalista politico alla Stampa, ma devo dire che è stato anche stagista Radio 24, quindi sono molto contenta di averlo come ospite. Buonasera Francesco Maesano, ciao Francesco. Ciao, buonasera a voi, ero stagista da voi ed ero il tuo dirimpettaio di banco. Sì, che pazienza che devi aver avuto, che pazienza, io 3 anni. Guarda, veramente, poi vi danno i gradi, non vi preoccupate. Francesco, posso farti subito una domanda su questo video? Ma loro dicono, proveranno a spaventarci, ci diranno, ma chi sono questi essi, questi costoro? Chi proverà a spaventarci? Beh, l'ineffabile collettivo dei costoro cui si riferiscono sempre i 5 Stelle. I 5 Stelle si sono sentiti per una settimana, ormai 10 giorni, sotto attacco anche mediatico per questa questione di Quarto. E il video è stata una cosa interessante da molti punti di vista. C'è una chiave appunto esterna a quella che dicevate anche voi adesso, di loro che rispondono e in qualche modo si pongono tra le critiche e il movimento. E poi c'è una tutta interna, che è questo Di Battista che si mette al centro di Di Maio e Fico, che per chi non ha seguito proprio la vicenda così con la passione dell'entomologo, bisogna ricordare che Di Maio e Fico sono quelli che hanno gestito la pratica Quarto, mentre Di Battista se ne è tenuto un pochino fuori. Poi nel momento in cui la cosa di Quarto esplode e in qualche modo diventa un problema vero politico per il Movimento 5 Stelle, Di Battista decide, facciamo questo video, si mette al centro dei due e quasi chiede scusa all'elettorato per il comportamento, insomma così, per la gestione non proprio ottimale della vicenda. Quindi sì, ci sono un bel po' di livelli di lettura. I 5 Stelle si sentono sotto attacco praticamente da quando sono arrivati alle Camere, non è una novità. Il rapporto tra la stampa e gli onorevoli deputati e senatori del movimento è sempre stato parecchio complicato, all'inizio era anche più complesso, c'era stato addirittura un tentativo di organizzare da parte dei gruppi della comunicazione una sorta di ronde del transatlantico per controllare i rapporti tra politici, parlamentari e giornalisti. Poi piano piano le cose si sono un po' normalizzate, loro hanno fatto una scelta, quella di tornare negli studi televisivi che inizialmente non facevano per delle ragioni così di partito preso, e poi le cose sono cambiate, sono un po' migliorate, però non fino al punto di non considerare da parte loro la stampa come un qualcosa di separato. Loro considerano la stampa parte del sistema contro cui loro si pongono, quindi lo mettono insieme alla nomenclatura e all'organizzazione dei partiti tradizionali. Ecco, oltre alla stampa, in questi costoro che attaccano il Movimento 5 Stelle, sicuramente nella narrazione, soprattutto in rete dei 5 Stelle stessi, c'è anche Renzi e il mondo di Renzi, perché dicono i 5 Stelle, beh certo, lui aveva il problema dei boschi, Banca Etruria, insomma era un momento in cui Renzi iniziava a scricchiolare, e allora dicono i pentastellati, dal PD, che pure non dovrebbe fare la morale a noi, tirano fuori un'altra cosa per infangare noi. A questa, diciamo, narrazione ha contro risposto Renzi dicendo no, con questo caso qui i pentastellati hanno perso. Ma lo sentiamo, no? No, sì, mi guardi, no, cosa? No, ti ascolto, sono qua. No, che perché hanno detto hanno perso il monopolio della morale, allora, ammesso sentiamo, che l'avessero. Sentiamo cosa ha detto Renzi. L'idea che il 5 Stelle abbia il monopolio della morale per noi non è mai esistita, ma adesso è chiaramente venuta meno anche per gli elettori, i militanti del 5 Stelle. Beh, complicatissima questa cosa, però. È complicata, ma sta in parte tirando fuori una nuova forma di bipolarismo, bipartismo. Noi eravamo abituati da 20 anni di destra e sinistra. Qui invece si sta creando sempre di più la contrapposizione Renzi-5 Stelle, che poi dialogano, quando succede, adesso vedremo, Unione Civile e dintorni. Ma, insomma, volevo chiedere a Francesco, ma non sei sicuro che di questa contrapposizione costante poi alla fine anche il Movimento 5 Stelle in qualche modo ne ha bisogno, no? Di essere visto. Assolutamente sì. Vai. Assolutamente sì. Sì, sì, assolutamente sì. No, il Movimento 5 Stelle ha sempre tenuto e teso a farsi considerare come l'unica opposizione del paese. In questo momento le organizzazioni parlamentari, ma anche le organizzazioni delle forze in campo, se stiamo a guardare i sondaggi per quello che valgono, che ricordiamo che siamo senza una prospettiva di elezione alle porte, vedono i 5 Stelle come l'unica forza aggregata alternativa al Partito Democratico. Le proiezioni dei sondaggisti sono tutte quante su PD e Movimento 5 Stelle in quell'ottica lì. Poi c'è il centrodestra che però ha un problema, che è la divisione. Il centrodestra tutto unito in teoria sarebbe più alto del PD, ma c'è una regola base della politica che quando devi associare 3 o 4 o 5 o anche 2 semplicemente formazioni politiche, le loro performance non fanno mai la somma dei loro totali presi differentemente. Cioè se io ho il 3% e tu hai il 10%, non ha detto che la nostra somma faccia il 13%, anzi generalmente fa una cifra inferiore se non molto inferiore. È per questo che 5 Stelle in questo momento, essendo una, anche dal punto di vista così del racconto, un'alternativa radicale al PD di Matteo Renzi, ma anche in realtà al sistema stesso dei partiti, riescono a raccontare come la vera opposizione. L'anno scorso e per tutto quest'anno loro hanno detto che si propongono come alternativa di governo al Partito Democratico, e questo vogliono diventare, diciamo, da forza totalmente antisistema stanno diventando una forza che ha in qualche modo plasmato un'altra sorta di sistema. Quindi sono totalmente d'accordo con te su questo punto. Io ho una domanda come sempre un po' ingenua sulle cose della politica: quanto è difficile occuparsi di Movimento 5 Stelle come fai tu ormai da molto tempo, Francesco? Cioè non è come occuparsi di un altro partito anche il fatto che tu abbia una presenza sui social non è come occuparsi di un altro partito, è più difficile. Più difficile nella misura in cui scrivere di Movimento 5 Stelle provoca sempre reazioni forti, quindi sì, se ti riferisci a quello, alle reazioni, agli articoli. Cioè a me capita magari di twittare una cosa che non c'entra nulla e di avere delle risposte iperreattive perché sembra che io mi riferisca a una cosa. Io immagino che occupandolo tu per mestiere sia molto difficile mantenere la barra dritta. Sì, assolutamente, c'è anche da dire che io faccio un utilizzo dei social molto 1.0, nel senso che sono per me un luogo dove cercare le cose, esatto, leggo più che scrivo, non sono un utente molto attivo, sono più un utente passivo, leggo, cerco, uso Twitter di fatto come un terminale di agenzia per cercare le cose, non sono un grandissimo utente attivo, diciamo, ogni tanto, ma molto, molto poco. La difficoltà iniziale nel seguire il Movimento 5 Stelle per tutti i colleghi è stata quella di parlare con le fonti, cioè di arrivare a avere delle fonti, perché loro professavano all'inizio, alcuni di loro almeno davano mostra di professare una alterità, una alternatività totale rispetto anche al sistema dei media, che non consentiva i rapporti ma proprio minimi di interlocuzione. Poi piano piano col tempo si sono sciolti, forse probabilmente il fatto che molti di questi parlamentari del Movimento 5 Stelle avessero un'età veramente bassa, veramente giovane, a favore di un po' i colleghi più giovani rispetto ai colleghi più vecchi, perché venivano considerati in qualche modo più integrati nel sistema, invece con i più giovani erano un po' più aperti, e se all'inizio notavamo tutti un pochino questa cosa, poi piano piano i rapporti, ripeto, si sono molto normalizzati, non è più stato così col passare del tempo. Adesso ci sono, anche perché anche loro hanno preso le misure, riescono a capire di chi si possono fidare e chi non si possono fidare, ma inizialmente è vero, sono arrivati pensando di non potersi fidare di nessuno, però ripeto, anche loro sono cambiati negli ultimi 2 anni e mezzo, da quando sono arrivati alle Camere sono cambiati parecchio, hanno di molto abbassato i toni e di molto abbassato il livello dello scontro anche con la stampa. E poi si è complicato e stimolante. Ah beh, quello è vero. È complicato e stimolante. No, e poi anche perché poi avranno capito che i giornalisti 30-40enni non sono più casta, ma sono... No, poi sapessero quanti simpatizzanti del movimento ci sono nelle redazioni comunque. Verissimo. Va bene. Francesco, grazie Francesco Maisano per essere stato con noi. Grazie. Giornalista della stampa. A presto Francesco, ma grazie. Ci sarà adesso il traffico? Sì, adesso c'è una piccola interruzione per il traffico e poi cantiamo ancora? Sì, dopo cantiamo ancora, tra poco. Radio Tube. cellule di Al-Qaeda nel Maghreb hanno minacciato l'Italia proprio sulla Libia. Il governo dell'unità nazionale è un complotto italiano che vuole occupare il paese. Se ne pentirà. Dopo Volkswagen anche la Renault finisce. Ma povero americano, ma si sentiva male. Ma no, io non, ma no, è per dare più pathos. Ma no. Ma stava benissimo. Dopo ha detto, ragazzi, sto benissimo. L'economia italiana invece. Ma ragazzi, allora, buonasera. Il problema della voce, la questione dell'Indonesia, la questione di quello che è successo a Giacarta. Vediamo subito. Ma no, ma è andato malissimo. Avanti anche durante il telegiornale, povera. No, però che grandissimo mentale, altre che lui può fare una maratona, figurati se quattro titoli di giornale. Posso dire secondo me cosa è successo? No, lo so. Il classico servizio è arrivato in ritardo che lui doveva visionare nella videocassetta. Ha fatto una corsa. Esatto. Sì, nel Betamax che non ci sarà più. Ancora quella cosa. Lui sì. È andato lì davanti e ha detto questo sì, questo no. Poi dopo, ma devo andare in diretta. Come fai? Quando tu devi fare le scalette? La no? Prima legge sul tacco 12. Del. Certo, no. Oggi niente. La prima legge? La prima legge del conduttore è mai correre. Io ma anche in radio? Ma certo, io piuttosto lascio andare la sigla a un minuto. Quando Gigi Donnelli corre a dire il TG. GR si dice. No, non arriva mai correre, no. Mai correre perché il fiatone si sente. No, poi si alimenta. È come la passione. Si alimenta. Cioè diventa esponenziale, come un retweet. Sì. Ti è mai successo? Allora, a me, io non ho mai fatto entrare qualcuno al posto mio, Radio 24 è successo, però mi è successo di arrivare col fiatone quando conducevo 12, la rassegna stampa al mattino, una decina d'anni fa. Alle 6 quindi? Sì, mi sono fermata. No, ma perché hai fatto tardi? Era il cappuccino. No, sai perché? I bigodini, ma tanto la radio. Perché sono entrata in studio, stavo iniziando, ho detto, i giornali! No, vabbè, facevi la rassegna stampa senza i giornali, che disastro. Sono entrata nello studio, non avevo i giornali, corri fuori, corri dentro. No. Allora, però sei pronto per Sanremo? Manca un mese. Allora, oggi è finisce il a San 16, Valentino, sì. Finisce a San Valentino, finisce il 14, sì. Inizia il 9. Però qua già si comincia, proprio si sente. C'è Gabriel Garco, visto. Maledetta primavera, sì, grande, che ci unisce Gabriel molto. Gabriel Garco, mi pare che è tutto a posto, ma noi sì. Potremmo, raccontaci tutti gli ultimi Sanremo. Io vorrei sentire tutto. Tutte 65 ecco, adesso sedetevi radioascoltatori perché sentirete tutte le canzoni che hanno vinto tutti i festival, cioè sono 60? Sono 65, ma non le sentiamo tutte. Ve li ricordate gli Oblivion, quelli che avevano fatto i Promessi Sposi? No, non me li ricordo. Sono dei record people di YouTube, ma anche a teatro, hanno fatto sintesi. Un sacco di cose fanno bellissime cose a teatro. Tra l'altro tornano a Milano al Teatro Leonardo dal 19 aprile, a Roma al Teatro Sistina dal 3 maggio, sono strabravi. Sì. Lo spettacolo dura 7 minuti. No, allora, 5 minuti su YouTube, poi ve lo linko subito. I Pentatonix, i famosi Pentatonix, avevano fatto Evolution of Music e loro hanno fatto Evolution of Sanremo, eccola qua. Tutti gli altri tu la colomba bianca vola lungo un viale giallito d'autunno. Cioè, capisci, sono tutte le canzoni che hanno vinto, ma sono pochi secondi per ognuna. Sono intonati, eh? Sono bravissimi gli Oblivion. Fanno delle armonizzazioni straordinarie e sono straordinari. Sono arrivati fino proprio a... Chi ha vinto l'anno scorso? Il volo! Il volo! Sono anche andata con loro all'Eurovision. Sono andate in volo. Ha vinto il volo. Quindi allora, in Italia può succedere chiedo, di tutto dopo la vittoria. Chiedo invece a Paolo Corleoni se ci va un po' avanti col file, così sentiamo un po' anche quelle più recenti, andiamo verso la fine, così sentiamo un po' le ultime, sentiamo cosa cantano gli Oblivion. Ci sei tu, addio, addio, sei quasi fatta per me. Ah, Tony Renis, vedi, le fanno tutte in 5 minuti. Le sai tutte tu, eh? Sì, ahimè sì, ma io ripasso anche, sai. Ripassi quando? Tu e tua amica di Anselmi, li mettete lì prima di iniziare. Io quando sento odore di maledetta primavera comincio a riascoltarmi i vecchi Sanremo, a riguardare... Povera, non chiamarmi. Mi piacciono tanto, ciao Volo. Da quando sono andata con loro all'Eurovision... Ti posso raccontare una chicca? Sì, raccontami. Allora, praticamente, lo scorso Natale, vi viene Rocco, mio figlio, che dice... Che la sai? Che ti ha fatto uno scherzo? No, non so se lo scherzo l'ha fatto lui o l'ha fatto la mamma. Cioè mi ha detto dobbiamo regalare tantissimo alla mamma, ci tiene tantissimo il CD del volo. Sì. Quando gliel'abbiamo regalata è sbiancata. Perché a lei perché non piaceva, però gli voleva lui. Forse li, li voleva lui. Però vabbè, adesso si sente solo rap, è un disastro. Ci sono dei rap a Sanremo, rapper? C'è Rocco Hunt. Benissimo. C'è Clementino. Perfetto, perfetto. Ci sono un sacco di rapper, ci sono tanti un sacco di cose. Dicono parolacce quei rap, perché rap abbassate perché i bambini cantano le canzoni. Vabbè, dicono le parolacce, ma mica da ieri dicono le parolacce a Sanremo. No, c'è... Ah, brava, voltiamo pagina. Masini, allora, per esempio. Non, questa non è una canzone sanremese. Non è neanche Marco un rap. Masini l'anno scorso a Sanremo a me era piaciuto tanto, la canzone bella, era bellissima. Bella. Era molto bella, Marco Masini ha cantato anche a Capodanno su Rai 1. Sì, quello famoso della bestemmia dell'SMS e di tutto... mezz'ora prima lo festeggiamo. No, 40, 40 secondi. Secondi. E noi la settimana scorsa dicevamo, ma il, no, il era Rocco Papaleo che aveva l'orologio sbagliato. E invece pare che l'avessero fatto... apposta! Come il maestro Canello va di bene, Fantozzi. Se l'hanno fatto apposta è meglio o peggio? È più ingenuo. È più ingenuo. È più ma ingenuo. C'è chi sostiene... che il problema della Sicilia è il traffico. Sì, no, che Jim Morrison se gli metti un'altra parrucca sembra un'altra persona, ma soprattutto che il problema di quella sera non era no, allora, né la bestia. Aspetta, la cosa di Jim... Allora, andiamo per ordine. Il senatore Maurizio Gasparri. Che sui social network è stato preso in giro perché gli hanno fatto vedere una foto di Jim Morrison e... facendogli credere che fosse un delinquente. Lui, Drugano, vabbè, non è milanese, però non aveva capito che era, che Jim, era Morrison. Jim Morrison. Allora hanno fatto la foto con la faccia di Gasparri, i capelli di la vista di Gimbo. Sì, l'ho vista. Invece su Capodanno cosa ha detto? Vabbè, lo lui guardiamo cosa ha detto su Capodanno. Commissione di vigilanza e ha detto che il vero problema di Capodanno è... Si è parlato molto della bestemmia e molto dell'orario. A me mi ha fatto più arrabbiare. È una canzone carina che uno può anche sentire, la conosciamo, c'ha 20 anni. Ma che una 00:20 il saluto della Rai sia stato vaffanculo con Masini che la cantava. Quazzalini che cantava vaffanculo insieme grazie, a lui Gasparri, ma l'ha fatta anche sentire e sì, perché lui dice se la mandano a casa mia a Rai 1 la posso mandare anche in commissione di vigilanza, ma e così scusa, anche noi tra ma l'altro ma si è portato il boombox, il registratore no, aveva l'iPad, no, è 2.0 aveva no, il tablet, pensavo si fosse portato il registratore no, a cassetta e il Gasparri guarda che scusa, vaffanculo di tanti anni fa come canzone, cioè, sì, ma c'era già il senatore Gasparri, comunque ci ha costretto anche noi a Radio 24 a salutare con... Stiamo salutando, no? Oh, manca... Siamo quasi per salutare. Quasi. Siamo quasi per salutare. Ma volevamo? Ah, beh, dobbiamo fare degli auguri. Ma sì, ma facciamo dai, degli facciamo auguri. Auguri. Allora, raccontami un po', chi ha compiuto gli anni in questi giorni? 40? Sono di poco più vecchio di Repubblica del giornale. Io non dirò nulla. No, ma tu sei tu sei come R2 che è nato tipo 15 sì, anni sì, fa, infatti, non lo so. Infatti. È stato il compleanno di Repubblica, noi facciamo tanti auguri ai colleghi di Repubblica e al fondatore Eugenio Scalfari. Se ne è parlato molto in rete? Sì, ha fatto sorridere perché ha detto che non vuole che il Papa, cioè il Papa non sì. vuole che Scalfari si converta. Lo sai? No, come che mai, è strano scusa, perché il Papa dovrebbe volere che tutti no perché ha detto c'è che c'è anche scritto da qualche parte che insomma c'è bisogna scritto? Fare non lo so tu cioè, che frequenti tanto adesso ma no io... ma io non lo so in giro. No nel senso che ma se mostriamo alla radio perché il Papa non vuole che Eugenio Scalfari fondatore di Repubblica si converta. Ah sì? Lui mi ha detto e poi se lei si converte siccome io voglio parlare con un non credente perché lui stimola me e io stimolo lui. Allora, se lei si converte, ne devo trovare un altro come lei, che è una faticaccia. Quindi non si converte. Beh, bellissima questa motivazione. Tosto, tonico tosto, il fondatore. Perché devi avere qualcuno con cui... beh, tosto, tonico. Vabbè, allora facciamo gli auguri ai nostri sì, colleghi di Repubblica. Chiudiamo ancora con il Papa, o meglio con qualcuno che... ma vuole fare il Papa? Non vuole fare... non ho capito. Scalfari non si può convertire. Allora però sentiamo Benigni... invece Benigni, ma... devo dire che solo a questo Papa poteva venire in mente di organizzare la presentazione del suo primo libro con un cardinale veneto, un carcerato cinese, un comico toscano. Mi sarebbe piaciuto proprio fare il sacerdote, addirittura quando ero piccolo facevano quella domanda che fanno a tutti i bambini, cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo sempre il Papa, proprio. E siccome a questa risposta si mettevano tutti a ridere, capii che dovevo fare il comico, insomma, ecco. Ecco, è stato vabbè, dai, se l'è cavata la grande. Ha riso, no, Daniele Bellasio. Sì, no, ma se l'è cavata stata la grande Bellasio. Tu cosa volevi fare da piccola? Io da piccola volevo fare la cantante. Ah, bene. E per questo ho studiato musica per molti anni e poi ho deciso di occuparmi di musica in altro modo. Di fare la ballerina alla radio. Di fare la ballerina alla radio, però tanto poi adesso a breve canteremo anche noi perché faremo il karaoke. E tu cosa volevi fare da grande? No, adesso non te lo dico. No, adesso lo voglio sapere. Anche gli ascoltatori vogliono saperlo adesso. Ma no, volevo fare questo qui che faccio. Volevi fare il giornalista? Che noia. Non sapevo ancora scrivere, ma già volevo fare il giornalista. Sì, ero già vecchietto. Ma sì, va bene. Straordinario. È finito, però se volete ascoltare il Sabato del Villaggio, sabato prossimo alle 15 con Marta Cagnola e la squadra di Radio 24. Sì, alle 15 invece alle 17 c'è Radio YouTube dalle 17 alle 18, però non dimenticatevi che c'è anche il podcast Radio24.it. Sì, mi piace. Due ringraziamenti prima di concludere. Cristian Goldoni, che adesso dobbiamo scoprire che cosa suonerà mentre noi faremo il carpooling, esatto, cantando quelle cose lì. Esatto, ci portiamo anche Paolo Corleoni, che adesso è stato in regia, però ci farà regia al carpooling, esatto, karaoke, non lo so, faremo anche noi il nostro karaoke in macchina. A sabato prossimo. Ciao.